Non sono sicurissimo, in tutta franchezza, non sono sicurissimo che il centro-sinistra trarrà grandissimi vantaggi dalla campagna contro l'evasione fiscale. Non perché l'iniziativa sia sbagliata, figuriamoci, visto che il principio per cui le tasse vanno pagate da tutti quanti vi sono tenuti come unica condizione possibile per riformare il sistema in termini di giustizia ed equità è ovviamente ineccepibile. Né d'altra parte il governo poteva far molto altro. Stretto com'è tra la necessità di reperire in qualche modo le risorse con cui ovviare agli allegri sperperi dei predecessori e quella di non mazzolare più che tanto quei disgraziati che gli hanno concesso visivissima maggioranza su cui si regge. La causa degli evasori non la può sostenere nessuno. Fu soltanto Berlusconi, mi sembra, che un paio d'anni fa, in visita alla Guardia di Finanza, sostenne che al di sopra di un certo livello di imposizione e quella di frodare il fisco è una scelta eticamente giustificata, ma il giorno dopo gli fecero dire che era stato frainteso. Ed è sempre buona norma scegliersi un avversario che in linea di principio è già dalla parte del torto. Esauritasi la minaccia del terrorismo, rivelatasi troppo dura da lodere quella della malavita organizzata, passati rapidamente di moda ai pedofili, irrimediabilmente monopolizzato dall'opposizione il tema dell'immigrazione clandestina, al governo, per additare al pubblico audibile, non restano altro che gli evasori fiscali. Tuttavia, il fatto che un'argomentazione sia ineccepibile per di più necessaria non la rende di necessità efficace sul piano retorico. L'idea di pagare meno affinché paghino tutti, perché pagano tutti, può attrarre chi per motivi di forza maggiore rosicchiare qualcosa al fisco proprio non può, perché glielo trattengono alla fonte, per esempio. Ma eserciterà un'attrattiva molto scarsa su chi a ridursi le uscite fiscali provvede già per conto suo. E poi diciamocelo, larga parte dell'evasione, quella da lavoro nero e da prestazioni non fatturate, è ben vista anche dal normale contribuente tassato alla fonte, che non ha particolari interessi a pretendere regolare fattura da artigiani e professionisti vari, e non si dispiace che non gli sia addebitata l'IVA sulle prestazioni che da costoro riceve. E poi chi si fida? I rapporti della politica con le lobby economiche sono tali che l'idea che i loro protetti delle lobby, siano davvero tartassati non è tra quelle su cui ciascuno sia davvero pronto a giurare. Insomma, sbaglierò, ma a me sembra che nella percezione corrente l'ipotesi del pagare tutti, che se ne dica, resti poco credibile, che quella del pagare meno, si realizzi o non si realizzi la prima condizione, appaia francamente irrealistica. Diciamo che il progetto in sé è lodevole, ma lo slogan è troppo corretto per scaldare davvero i cuori. In un governo che si ponesse, così per dire, l'obiettivo di spremere fino all'osso i ricchi sfruttatori, i parassiti sociali, gli ostentatori dei costumi di lusso, che ce ne sono davvero tanti, in un governo siffatto quelle che una volta si chiamavano le masse popolari potrebbero forse investire un po' di fiducia, permettendogli di non badare più che tanto ai ricatti delle agenzie di rating. Ma se l'unico nemico che si propone al popolo è rappresentato dall'entità disdicevole ma impersonale, e tutta da definire in termini antropologici dell'evasore fiscale, il consenso sarà certamente più tiepido. Perché è inutile nasconderselo, l'impegno di far pagare le tasse ai nostri concittadini ricorda un po' quello degli sceriffi del vecchio West, quelli che si dichiaravano votati a uno sporco mestiere che pure qualcuno doveva fare. La similitudine non deve essere sfuggita a qualche esponente governativo più romantico degli altri. Il viceministro Visco, per esempio, vi adegua volentieri la propria immagine, e non si preoccupa di fare personalmente da parafulmine ai mugugni e lacrimonie che la sua politica finisce inevitabilmente per suscitare. La cosa, confesso, me lo rende piuttosto simpatico, soprattutto se la si paragona all'insopportabile piacenteria che affligge quasi tutti gli altri membri del gabinetto. Ma il bello degli sceriffi del West, naturalmente, è che a missione compiuta s'affrettavano a gettare la stella nella polvere, volgevano le spalle all'ingrata cittadinanza e s'avviavano mesti a cavallo verso il tramonto. E nulla fa pensare che gli attuali detentori della carica abbiano intenzioni del genere.